problemi della vita. Come rispondere a queste provocazioni? Come dividere il frutto dal peccato e dove rivolgere la mia attenzione? Grazie alla scuola butto fermo in fondo al mare e a quella sana voglia che ho di trasgredire. Sono caduto nella rete del mercato, cronaca di un naufragio annunciato. Non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho. Io proprio non ne ho, no no no no. Non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho idea, non ne ho. Io proprio non ne ho. Anni e tengo tutto il mondo in mano, è quello che voglio, voglio, io lo voglio, e non mi frega proprio un cazzo della gente, e non ci credo di essere un perdente, lasciato solo a scavare nel rumore, sempre da solo a parlare l'amore, e non mi bastan più le tue parole, sto già ingoiando i miei bocconi amari, cerca sempre un po' di più, ci sono troppe false promesse. Stesso e alla mia pelle dura, grazie ai pericoli e alle mie paure, grazie alla gente che mi ha accompagnato.